sodo, parlavamo della campagna di questa, insomma, asta di beneficenza per una causa più che giusta, che ci facciamo direttamente spiegare da Santoro, Alessandro Santoro, che è prete della comunità delle Piagge, nonché lavoratore della cooperativa Il Pozzo, e anche uno delle menti e delle mani e delle braccia che hanno costruito faticosamente e lentamente la comunità, che oramai da decenni è attiva in un quartiere fiorentino tanto difficile, ma allo stesso tempo tanto speciale. Come diceva Coso, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Dunque andiamo proprio a sentire Don Santoro. Alessandro Santoro, dalle Piagge, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto l'iniziativa lanciata dalla comunità delle Piagge per il sostegno dei carcerati, delle persone che risiedono in carcere attualmente con grossissimi problemi economici, in quanto dite che ci sono più di 300 persone che attualmente vivono con meno di un euro al giorno, quindi in una situazione di estrema povertà. È corretto? Sì, è più che corretto. La situazione è ancora più forse drammatica, perché passare questa cosa della, di un euro al giorno, ma non è che c'è un euro al giorno, è che le persone, più di 300 persone all'interno del carcere di Sollicciano e nel carcere a custodia attenuata dei Goccini hanno a meno di un euro nel loro conto corrente interno, che vuol dire che quindi quel conto corrente rimarrà fermo fino a quando non ci sarà la possibilità o di uscita dal carcere oppure un contatto con le famiglie, magari si possono permettere di poter mettere qualche soldino all'interno del conto corrente. Quindi la situazione di queste persone è da sempre una situazione di indigenza, ma ora a maggior ragione con questa mancanza, diciamo così, di trasporto anche affettivo, di dialogo, di scambio e anche di consegne, a volte di un po' di cibo, a volte di un po' di vestiario, da parte dei familiari. Per cui queste persone vivono una situazione di totale indigenza, per non dire quelle cose che sono tradizionalmente in qualche modo mancanti all'interno del carcere. Parlo degli occhiali che per esempio vengono fatti attraverso un impegno dei volontari dell'associazione Pantagruel, con l'associazione di volontariato che si occupa di carcere all'interno di Sollicciano. Parlo delle tessere telefoniche che servono per poter chiamare la famiglia, parlo della possibilità di pagare e di prendere gli esami magari fatti all'esterno, medici, le visite mediche che vengono fatte per le persone che sono magari ristrette ma in condizioni di salute precarie, e via di seguito così. Parlo del vestiario, parlo del cibo, e quindi tutte le situazioni che non potevamo non tenere in considerazione e che teniamo sempre in considerazione e monitoriamo tutto l'anno attraverso le associazioni di volontariato, ma che nella situazione di coronavirus e quindi di reclusione, nella reclusione in cui si trovano questi detenuti, diventata esplosiva in modo incredibile. Quindi abbiamo deciso di alzare un po' il livello, ecco, del confronto anche con la cittadinanza rispetto a questo, e di non lasciare indietro nessuno, e quindi voler considerare anche questa indigenza come indigenza di cui dobbiamo farci assolutamente carico. Ecco, fra l'altro le carceri hanno visto nei primi giorni dell'emergenza numerose rivolte in quasi tutte le carceri italiane, compresa anche a Sollicciano, ci sono state si è un po' scaldata l'atmosfera, mettiamola così. Poi, dopodiché, è calato un silenzio tombale su tutto il sistema carcerario, quindi veniamo a te a chiedere anche un po' la situazione attuale, come sono stati passati questi due mesi, sia da un punto di vista dei detenuti, se avete dei contatti, che magari anche da un punto di vista delle famiglie. Sono stati dei mesi molto difficili, anche perché noi stessi come volontari anche di lunga data ed anche altri operatori volontari del carcere siamo stati fuori anche noi completamente, quindi abbiamo avuto soltanto contatti attraverso le conoscenze che abbiamo e avevamo, e attraverso gli operatori del carcere ci hanno dato un po' notizia delle situazioni che avvenivano dentro il carcere. E la situazione è davvero complicatissima, questo silenzio ovviamente ci fa anche un po' pensare, un po' rabbrividire anche di quella che potrebbe essere la situazione insomma in cui vivono queste persone, assolutamente in grandissima difficoltà, se pensi che già prima del coronavirus insomma si viveva dentro le celle per due persone in quattro, e immaginati quindi la convivenza quindi anche fra di loro, e poi la mancanza di tutti i dispositivi che le persone che provenivano dall'esterno, e quindi sono le guardie carcerarie e tutti gli operatori del carcere, provocava quanta difficoltà poteva provocare anche nel rischio di contagio che ci poteva essere e che c'è stato dall'altro, che non è stato e che è stato completamente sottaciuto. Io so che soltanto un mese fa, anzi meno, 20 giorni fa, sono arrivati tutti i dispositivi per rispettare le regole di distanziamento sociale come per tutti i cittadini, ecco, all'interno del carcere. E quindi questo la dice lunga insomma su qual è la situazione e su qual è stata la ragione anche per cui all'interno del carcere c'è stata una sorta di, come dire, di rivoluzione, di rivolta rispetto a questo. Non ultimo il fatto che ancora non si è capito bene, le persone sono morte, perché sono morte anche delle persone all'interno del carcere, morte anche per queste rivolte, come sono morte, cosa è accaduto e qual è di chi è la responsabilità di queste morti, e che insomma fa gridare molto allo scandalo, ecco, questo silenzio, e lascia un po' pensare e che ci mette un po' in grande difficoltà. Quindi anche questo sasso nello stagno, anche rispetto a svolgere gli occhi verso il mondo del carcere, perché il carcere è un po' il termostato del grado di civiltà di una città e di una società, e credo sia assolutamente importante e fondamentale. Così come è fondamentale che ci siano state delle persone che hanno preso al balzo un po' questa provocazione e anche esigenza di dare un contributo agli indigenti, anche per gli indigenti che sono accorti, ecco, dell'importanza di questa comunità che è lasciata molto a se stessa, molto dimenticata, e parlo di questi appunto artisti di strada che ci stanno aiutando questi street artist ci stanno aiutando per fare in modo che si possa mettere un po' l'occhio, ecco, un po' un occhio, un po' di coscienza, un po' di attenzione rispetto a questo mondo che spesso è lasciato sotto silenzio. Ecco, io ti ringrazio per queste parole, ne approfitterei anche per mettere l'occhio sulla situazione alle Piagge, intorno alla comunità, intorno al centro sociale. Sappiamo bene le varie problematiche che il quartiere da oramai decenni affronta direi a testa alta e anche con ottimi risultati sotto tanti punti di vista, però sicuramente una situazione del genere incide molto sulla vita delle persone, in particolare su quelle più fragili, quindi anche ancora una volta ti vengo a chiedere un po' l'opinione sullo stato delle cose nel quartiere delle Piagge, nelle famiglie più in difficoltà, non per ultimo anche della cooperativa Il Pozzo, che sappiamo insomma le difficoltà che gli ambienti di lavoro stanno vivendo. Senza voler essere drammatico, ma direi che le Piagge, come tutti un po' i quartieri, periferie popolari, sono un'emergenza nell'emergenza, ecco. E anche lì è importante guardarlo dal di dentro, questo aspetto, e il quartiere come quello delle Piagge si reggono intorno all'economia, che è un'economia di sussistenza, che è un'economia molto legata al sommerso, all'economia informale, per cui tutte le persone, è un'economia che non è tutelata e che quindi le risposte anche ci sono state rispetto a questa emergenza, anche per cercare di venire incontro alle difficoltà delle persone, purtroppo non è riuscita ad arrivare proprio a questo tipo di famiglie, a questo tipo di tipologia di persone, di cui l'80% che è l'80% delle famiglie che vivono nel nostro quartiere, per cui tutti quelli che hanno vissuto e vivono e riescono a sopravvivere attraverso questa economia informale sono trovate completamente abbandonate a se stesse, e dimenticate e azzerate, diciamo, della loro possibilità di poter sbarcare lunario, cosiddetto, ecco. E quindi noi cerchiamo di intervenire in questa fetta di persone, in questa fetta di realtà che è una platea che si sta ingrossando sempre di più, perché non si riesce a contenere i bisogni e le necessità che queste persone hanno, e quindi abbiamo cominciato a creare tutta una serie di situazioni che ci possono permettere, che ci tentano di arrivare a poter a contenere, diciamo, questo disagio. E allora la comunità delle piagge, che è sempre stato un presidio un po' di umanità, diciamo così, anche un posto, come dire, sempre aperto, a bassa soglia, a maggior ragione, pur in questa chiusura, ha scelto di rimanere di nuovo aperto ed essere un punto di incontro e un punto di riscatto e di recupero della propria dignità attraverso, appunto, in questo caso, una nostra tentativo di riuscire ad arrivare a soddisfare i bisogni alimentari delle persone, delle famiglie che non sono rientrate neanche in questo meccanismo di buoni spesa e che non sono riuscite a rientrare neanche in questo dispositivo, diciamo così, dei pacchi alimentari, che purtroppo non riesce a coprire tutte le difficoltà che ci sono dentro il quartiere, e via di seguito. E non ultima questa esigenza, in qualche modo, di dare anche una risposta culturale, cioè di poter riuscire ad aiutare i ragazzi a poter continuare a fare il loro percorso, come dire, di consapevolezza e di cittadinanza attiva e di alfabetizzazione, insomma, sia sociale che anche proprio scolastica. E quindi stiamo lavorando, tutte le persone che lavoravano dentro la scuola e che lavoravano nel quartiere stanno lavorando con il computer, con dispositivi, appunto, questi virtuali, che purtroppo però non sono proprio i migliori per riuscire a contenere il disagio e il gap grosso che c'è dentro i quartieri, anche a questo livello, anche sul piano scolastico e culturale. Noi però ci impegniamo tutti i giorni, siamo, come dire, sempre in campo e andiamo avanti. E abbiamo visto anche, c'è stata tanta solidarietà e tanta attenzione di diverse persone, di questo siamo contenti, ma continuiamo a dire che non basta, ecco, ci vuole un'azione anche più politica che possa cercare di far scoprire quali sono i nodi che non permettono alle persone di poter uscire da questa situazione di affossamento, e che durerà anche nel tempo, e che quindi avremo modo anche di rivederla in quest'estate, anche nel prossimo autunno, purtroppo. Va bene, allora, grazie Alessandro Santoro, e bocca al lupo, grazie. Buon lavoro, visto che la mole delle cose da fare è sicuramente enorme. Ancora grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti. Oh. Allora, abbiamo sentito Don Santoro e questa è solo una parte, perché naturalmente abbiamo nominato Exit Enter e proprio lui andrà a spiegarci come funziona l'asta in modo pratico, cioè come potremo partecipare dall'1 al 2 di maggio. Lascio la parola a lui attraverso degli audio che mi ha prontamente inviato e che non ho fatto in tempo ad ascoltare, quindi sarà una surprise anche per me. Exit Enter. Ciao a tutti, sono Exit Enter e sono qui per parlarvi dell'asta benefica che faremo questo 1º maggio su Instagram. Per trovare e vedere le opere messe all'asta basterà usare l'hashtag Uniti Siamo Umani e troverete, seguendo Uniti Siamo Umani, tutte le immagini delle opere messe all'asta per raccogliere i fondi. I fondi saranno destinati ai due carceri di Firenze, M. Gozzini e Sollicciano. L'asta partirà il 1º maggio e finirà il giorno successivo. Si può partecipare rilanciando di 20 euro e la prima offerta minima è di 40 euro. Questa è un'iniziativa che sto facendo in collaborazione con l'Associazione della Comunità delle Piagge, che si occupano di varie cose, come anche di aiutare i detenuti nelle carceri. Io non sapevo che loro stavano già organizzando questa raccolta fondi e mi è stato raccontato da un signore che mi ha scritto su Instagram. E lui, nemmeno lui, sua nonna di 90 anni aveva partecipato alla scorsa asta Uniti si svolta, che avevo promosso insieme a Ninjaz in favore di CAT, un'associazione che si occupa di chi vive in strada, di famiglie dove sono senza reddito, persone maltrattate, veramente tantissime altre situazioni critiche, più che altro in questo momento più che mai. Come ho saputo che c'era questa iniziativa, ho contattato Don Santoro, che aveva lanciato, cioè, che aveva parlato lui a Repubblica. Questo signore che mi aveva scritto aveva visto appunto l'articolo e gli ho chiesto se volevano essere aiutati con l'organizzazione di un'asta. Loro si sono dati l'obiettivo di raggiungere 7.500 euro. No, non è. Grazie a questo signore che mi ha scritto su Instagram, allegandomi l'articolo dove Don Santoro della Comunità delle Piagge spiegava la loro iniziativa, la raccolta fondi, ho voluto contattarlo per proporgli di creare un'asta, visto che comunque sia quelle precedenti avevano funzionato bene, ho pensato che si poteva dare una mano. Io, tra l'altro, in realtà sono stato 2 volte alle piagge, ma mi sentivo già legato mentalmente alla comunità perché avevo in progetto con Marco Tangocci di andare a fare una specie di laboratorio con i ragazzi delle piagge, quindi già avevo in progetto di fare qualcosa lì e purtroppo è saltato tutto e ho trovato, boh, diciamo, ho pensato che fosse stato interessante cercare di dare una mano in un altro modo E da qui è nata la volontà di fare questa nuova raccolta fondi. Mi stanno dando una mano altri artisti, H77 mi ha fatto le grafiche, con Nian abbiamo fatto i testi, Ninjaz mi sta aiutando a far girare la voce tra gli artisti. E spero che, come nelle altre aste, partecipi un sacco di gente e che si riesca a tirare su 2 soldi per i carcerati. E io spero che questo sia anche un messaggio sia per le persone che magari si potranno ispirare a delle iniziative del genere per farne altre loro stesse in futuro, per far vedere che tutti insieme, comunque sia, possiamo veramente arrivare a fare tanto, a fare delle buone azioni e spero anche di mandare un messaggio ai carcerati che non sono soli e che c'è qualcuno fuori, oltre anche alle loro famiglie, che cerca di aiutarli e dargli una mano. Quindi vi invito a partecipare tutti. Se siete artisti e volete partecipare, siamo un po' in ritardo, ma basta che mi scrivete alla mia email exit@gmail.com e vi manderò le informazioni per poter partecipare all'asta con un'opera. E se invece avete qualche soldo da spendere, partecipate a quest'asta, che almeno vi portate a casa un pezzo originale, un pezzo d'artista e fate anche qualcosa di buono. Vi mando un saluto a tutti gli ascoltatori, un abbraccione e voletevi bene. Ciao belli. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.